Hey, hey, hey, hey. Keep going. I'm cooler di sini. Hey, hey, hey, hey. Che così. Mari bergembira bersama-sama hilangkan hati. Marilah kemari, hey, hey, hey.